do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko al corpo docenti, un trio, una band che ho in collegamento telefonico. Sono tutti e tre al telefono qua con me. Ragazzi, benvenuti su Radio Città Fujiko. Ciao, grazie mille. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao. Allora, innanzitutto vi chiedo di presentarvi, così facciamo anche un giro di presentazioni e associamo una voce a un nome. Ok, perfetto. Allora, ciao, io sono Benzo e sono il cantastorie della band. Io sono Luca e sono il batterista. E io sono Federico e sono il basso. Ragazzi, voi vi esibirete il 26 ottobre al Freak Out Club qua di Bologna e vi chiedo come prima domanda cosa si prova a salire, a ritornare su un palco e a ritornare ad esibirsi live di fronte a un pubblico. Allora, innanzitutto credo che comunque sia anche la prima data con gente in piedi, giusto? Se non sbaglio, adesso finalmente, o siamo ancora seduti? No, fermi in piedi da quel che ci hanno detto. Ma noi o loro? Nel senso, saranno in piedi. Ok, perfetto, perciò è anche la novità delle novità, cioè dopo 2 anni cioè, ritorniamo a far concerti con le persone in piedi, perciò penso che non potremmo essere più contenti di così. E poi no, aggiungo anche che è la nostra prima data a Bologna dopo un sacco di tempo ed è la prima data dove siamo headliner alla fine, perché abbiamo sempre suonato come gruppo spalla in altri contesti e quindi siamo veramente molto contenti. Volevo parlare anche delle vostre uscite, perché a settembre, dopo l'uscita di Sottotitoli, sta per arrivare un altro singolo dal titolo Entrambi. Vi chiedo innanzitutto se c'è un filo conduttore all'interno di queste nuove uscite e quali sono un po' i contenuti di questo lavoro. Beh, allora, il filo conduttore c'è in parte, possiamo dire così, in quanto questo nuovo lavoro che stiamo iniziando a far trapelare è stato affrontato da un po' tutti noi, produttore incluso, che è il buon vecchio Divi dei Ministri, in una maniera un po' diversa giustamente rispetto al disco precedente causa Covid. Quindi questo ha portato inevitabilmente al fatto che i pezzi abbiano avuto una genesi diversa, quindi più studio, meno saletta, in quanto tante volte c'erano zone rosse, lockdown vari eventuali. E questo pezzo che uscirà fra qualche giorno, alla fine, che è Entrambi, è quello che è un po' più che è riuscito diciamo a evidenziare meglio questo modo di lavorare, è un po' nuovo per noi e credo per tanti altri colleghi e anche per chi lo ascolterà. Alla fine, rispetto a quello che abbiamo alle spalle, c'è una componente new wave abbastanza evidente e anche bella. Volevo chiedervi anche rispetto alla copertina di questa uscita, che io trovo molto bella. Innanzitutto, chi è l'artista, chi è che l'ha realizzata e se c'è un collegamento di significato tra questa immagine e poi anche poi il lavoro. Allora, tutto il lavoro grafico è stato affidato a Margherita Morotti, che è una bravissima illustratrice di Modena e quindi lei insomma ha fatto la copertina di Sottotitoli, questa qui di Entrambi, e curerà anche tutto il resto del lavoro del disco. E tra l'altro lei aveva fatto anche tutte le grafiche di Povere Bestie, quindi il disco che è uscito l'anno scorso. E a livello proprio di relazione col brano, sì, c'è ovviamente una relazione e di fatto alla fine Entrambi, come può succedere dal titolo, è un brano che parla appunto di persone, di due persone, c'è una relazione all'interno del brano e c'è anche una relazione all'interno della copertina dove vediamo due soggetti che sono nascosti dietro a un fiore, che in questo caso è il papavero, e che in questo contesto ha un simbolo molto particolare, vuoi dire tu Fede? Beh, sì, alla fine il papavero, come ci ha suggerito Margherita alla fine, cosa che noi non sapevamo, raffigura un po' e simboleggia più che altro la stabilità, il senso di protezione che un'unione di intenti di due persone può generare, insomma. Esatto, è un po' il simbolo del papavero che noi non conoscevamo, ma ci è stato caldamente suggerito da Margherita, che sa tutto. Vi volevo fare un'ultima domanda rispetto anche un po' alle impressioni le impressioni di questa ripartenza, e speriamo una ripartenza definitiva, e quindi in cui questo primo concerto con pubblico in piedi, e speriamo che possa anche ballare, rispetto anche a una progettualità futura. Quali sono le prossime date, e anche se avete anche altri progetti in cantiere? Allora, sicuramente è stata una bella ripartenza, e anzi non ci aspettavamo di tornare con così tanto calore attorno, essenzialmente, visto che siamo stati stroncati più o meno un annetto e mezzo fa da quello che è stato il periodo Covid, diciamo, e per noi questa è stata una seconda ed ennesima ripartenza. Però ora come ora siamo ripartiti, siamo felici, sicuramente il progetto va avanti, cioè ora si mollerà questo nuovo singolo, poi ci sarà comunque dell'altro che verrà fuori senza fare troppi spoiler. Ci saranno delle altre date oltre a Bologna, sì, ci sarà Cremona l'Arcipelago, ci sarà Torino lo Ziggy e ci sarà anche Milano al Mare Culturale. E date che trovate comunque su tutti i nostri social, perché ora le date, sinceramente, Luca, vuoi dirle tu i numerini dei giorni che non me li ricordo? Ah sì, bello. saremo il 6 a Cremona, l'Arcipelago, appunto, il 19 a Torino e il 2 di dicembre a Milano al Mare Culturale Urbano. E no, vabbè, siamo molto contenti, cioè nel senso, sta andando bene, poi vediamo, insomma, ritornare sul palco dopo così tanto tempo ci permette anche un po' di capire, insomma, se il passato, se il lavoro fatto in passato ha dato i suoi frutti, se i singoli stanno dando i loro frutti, e quindi di vedere un po' la risposta. Poi noi sicuramente siamo una band che vive più sul palco che sui social o su piattaforme digitali varie, quindi insomma è lì che vediamo alla fine la verità. Ragazzi, io vi ringrazio per questa chiacchierata e vi auguro chiaramente tanta fortuna per l'uscita di questo singolo, dei prossimi e anche per la serata del 26, e speriamo di vederci presto. Vi ringrazio. Grazie mille a voi. Grazie mille.